effetto. Qua cerco di metafore che esprimono un concetto. Assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire! E allora ciao e bentrovate a tutti i nostri amici e amiche ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. Questa è appunto Radio Wombat, che la potete ascoltare all'1359 in onde medie, oppure la potete ascoltare attraverso i podcast o attraverso ovviamente lo streaming via web. Questo è lo spazio radio della stampa rassegnata, una piccola trasmissione che si è ripromessa da ormai siamo alla 43esima puntata con cadenza settimanale. La promessa di questa piccola trasmissione è quella di dare uno sguardo all'universo terrificante, spesso tragicomico, della cronaca locale, con particolare riferimento e attenzione a quello che accade sulla piana fiorentina rispetto alle due vertenze popolari che animano ormai da anni i nostri territori, che sono quella contro la costruzione dell'inceneritore di Case Passerini, che sarebbe poi l'inceneritore di Firenze, e quella legata all'espansione dell'aeroporto di Peretola e trasformazione in aeroporto intercontinentale. Vorrei cominciare la puntata di questa settimana riprendendo un argomento di cui avevamo parlato la settimana scorsa. Ci eravamo dedicati a raccontare un po' quella che era stata la vicenda del processo e dei fatti legati alla uccisione, un vero e proprio omicidio di polizia, quello ai danni di Riccardo Magherini, avvenuto nel marzo del 2014 e che dopo delle condanne in vero abbastanza risibili e mai del tutto applicate ai carabinieri che avevano eseguito il fermo e che aveva poi portato alla morte di Riccardo o Ricky, ce ne eravamo occupati perché c'è stata una sentenza di Cassazione molto rilevante che appunto ha dichiarato che il fatto non sussiste e ha mandato tutti assolti. Ne riparliamo per due ragioni. La prima, che è la più futile, ma insomma è umano, ci piace avere ragione, e avere ragione rispetto al fatto che ponevamo l'accento sulle difficoltà nel portare avanti una campagna per la giustizia rispetto a Riccardo. Giustizia rispetto a Riccardo che, a differenza di altre campagne con le quali ci siamo confrontati, in modo particolare quella legata agli eventi e alla vita e purtroppo alla morte di Niccolò Ciatti, una giustizia che nel caso di Riccardo parla e accusa direttamente lo Stato e i suoi apparati, cioè la pattuglia di carabinieri che ha eseguito il fermo e quindi ad oggi anche tutto il sistema giudiziario che ha portato a questa assoluzione di fatto attraverso una sentenza della Cassazione. Le difficoltà quindi di sostenere una campagna di solidarietà e di visibilizzazione di quello che è accaduto, e appunto ci prendiamo le nostre ragioni perché proprio nel mentre in qualche modo noi preparavamo le nostre cronache e la nostra trasmissione, avveniva a Roma un fermo di polizia ai danni di alcuni di un gruppo di attivisti di ACAD Roma, che è una situazione delle più vive rispetto alla denuncia, all'attenzione, all'analisi delle dinamiche dell'ordine pubblico, della militarizzazione della società e dei rischi che ognuno di noi corre nelle nostre strade. Quindi ci prendiamo le nostre ragioni proprio perché le difficoltà di mettere uno striscione ci sono e ce le faremo raccontare direttamente dai compagni che dai microfoni di Radio Onda Rossa hanno raccontato quello che gli è accaduto domenica nel tentativo banale di mettere uno striscione dove tra l'altro molte altre volte ne avevano messi. La seconda ragione per la quale ne riparliamo è una ragione, se vogliamo e concedetemi il termine tra virgolette, didattica o pedagogica, nel senso che chiaramente Radio Wombat non ha niente da insegnare in in modo accademico, però apprendimento attraverso i racconti e le esperienze degli altri crediamo che sia una forma di apprendimento legittima e un esercizio, diciamo, di pedagogia, passatemi questo termine, che ci permettiamo di fare. Il pezzo che selezionerò e taglierò in qua e là dall'intervento appunto dei compagni di ACAD dai microfoni di Radio Onda Rossa, sì, dopo aver raccontato i fatti, fa in qualche modo anche alcune riflessioni su quello che è stato il loro comportamento e quella che è stata la trappola che le forze di polizia hanno giocato nei confronti di questi compagni. Quindi, siccome le trasformazioni e la gestione della crisi capitalistica ha portato a forme di diciamo di militarizzazione vera e propria sia dell'ordine pubblico sia della società, e che sempre più spesso c'è una, diciamo, uno scambio quasi a vasi comunicanti tra quella che è l'attività delle forze armate all'estero con quello che invece è il controllo dei cosiddetti nemici pubblici, quindi chi come noi in qualche modo sta dalla parte di chi resiste addirittura all'aspirazione di cambiare, sempre più spesso si confronta e si confronterà in futuro con le forze di polizia, con gli apparati dello Stato, che tra l'altro oggi prendono forme anche nuove e innovative, perché crescono crescono i tessuti e le filiere della videosorveglianza e del controllo digitale e telematico, crescono le forme della sicurezza, come abbiamo visto anche attraverso quella che è stata chiamata sicurezza partecipata, cioè allargata ed estesa ad alcuni settori della popolazione e della cittadinanza civile, che collabora pur senza indossare le divise. E quindi, insomma, sempre più spesso ci dovremo confrontare con quello che è, con quelli che sono gli apparati della repressione. Ci si confronta e spesso veniamo fatti oggetto di vere e proprie rappresaglie, come è stato il caso dei compagni romani. Il compagno che parla, un compagno sicuramente, e lo dice lui stesso con una lunga esperienza, con un lungo corso, ci fa notare le trasformazioni dell'ordine pubblico, come ho detto, ci fa notare l'intensificarsi dell'ossessività delle pratiche poliziesche, e ci dice un po' come ha risposto. Sono consigli che, ripeto, ci sembrano abbastanza utili, e senza la tentazione o la presunzione di dare lezioni a nessuno, li mettiamo un po' a disposizione di tutti, perché nel futuro potrebbero servirci. Cerchiamo di affrontarlo, di guardarlo per quello che è nel tempo e per quello che rappresenta, cioè un sintomo della trasformazione delle cosiddette democrazie in vere e proprie democrature, cioè in dittature dove alla limitazione fortissima delle libertà, quali le libertà di sciopero, il diritto di manifestazione, di associazione o di espressione, però avvengono mantenendo un involucro di democrazia formale, svuotandolo però di significato. Quindi vi lascio alle riflessioni e al racconto del compagno, per poi riprendere con qualche altro argomento. Buon ascolto, a dopo. ACAD, dell'Associazione contro gli abusi in divisa, un'associazione nazionale che appunto vive in diversi spazi sociali del paese, e d'altro un'associazione appunto che è molto trasversale, fatta tanti spazi, tante aree, fatta anche da singoli e singole persone, singoli e singole avvocati che lavorano e collaborano con noi, abbiamo deciso in tutte le città di provare a in qualche modo fare dei momenti di denuncia, di indignazione, di rabbia rispetto a quello che è successo, a partire da Firenze chiaramente e poi in tutta Italia. Noi volevamo mettere, come è successo anche altre volte, come per la campagna Federico Ovunque, uno striscione sulla via, sul ponte di ferro che praticamente affaccia sul Colosseo. Eravamo lì in 11 compagni e compagne, prima ancora di poter fare tutto abbiamo subito ci hanno fermato in controllo, abbiamo subito dichiarato che eravamo lì per mettere uno striscione, abbiamo consegnato tranquillamente i nostri documenti, apposta perché stavamo facendo una cosa per noi molto semplice e tranquilla. Tutto andava bene, i documenti ci sono stati restituiti in un primo momento dalla volante che ci ha fermato, poi di punto in bianco, mentre ce ne andavamo, tutto è cambiato completamente scenario, in seguito a una telefonata ricevuta dalla volante che ci ha fermato, e sembrava che ci fosse stato un attentato al Colosseo. Abbiamo visto una scena veramente che almeno per me, insomma, che sono un attivista da tanti anni, un compagno che ha fatto molte battaglie, io non avevo mai visto, come dire, per 10 persone con uno striscione arrivare 15 volanti della polizia, un blindato, e chiudere completamente tutte le strade di accesso al Colosseo di domenica sera. E da lì poi siamo stati presi e tradotti tutti quanti nel commissariato Viminale, che si trova su via Napoleone III, e lì siamo stati trattenuti in una stanza per 4 ore, e poi io e un altro compagno di Agape, che abbiamo dichiarato di essere gli organizzatori, quindi anche assumendoci la responsabilità di colazione, di averla promossa, di averla organizzata, siamo stati portati senza nessun motivo, perché eravamo già stati identificati ed entrambi eravamo anche già abbondantemente noti alle forze dell'ordine, siamo stati portati con le volanti al centro di identificazione di Torre Cervara, dove siamo stati un altro po' di tempo, e tutto questo si è concluso intorno alle 2:30 di notte, quasi le 3, con una denuncia per manifestazione non autorizzata, che è un reato dall'altro anche depenalizzato, ed è praticamente ormai alla stregua di una contravvenzione. E questo è quello che è successo in quella sera. Niente di particolarmente grave, però incredibile, perché l'impressione che noi abbiamo avuto era quella di portarci sempre di più all'esasperazione, cioè di farci reagire a una cosa che sta succedendo, all'ingiustizia, e quindi poi provare in qualche modo a darvi farci un reato come resistenza, esatto, oltraggio e qualcos'altro, a metterci in una dimensione più complicata in quel momento, perché chiaramente a un certo punto era proprio una presa in giro: 5 minuti abbiamo fatto, 10 minuti abbiamo fatto, sapete andare, avete fatto. In più poi hanno sequestrato un gruppo elettrogeno a una macchina che era nella macchina del cui compagno. A me personalmente hanno sottratto uno strumento di lavoro, che è un grosso videoproiettore per il videomapping, che mi è stato preso e portato via, e mi è stato sequestrato, e ancora oggi non l'ho riavuto, ed è una strumentazione tecnica abbastanza importante. Tutto questo che poi hanno anche chiaramente perquisito le macchine a tutte, hanno sequestrato gli striscioni. Insomma, è stata una brutta nottata, perché chiaramente c'è stata una sproporzione da quello che era appunto il mettere uno striscione e poi tutte le conseguenze che ci sono state in quella notte. Tra l'altro, neanche manifestazione non autorizzata, tentata manifestazione non autorizzata, perché siamo stati bloccati anche prima, quindi proprio lo striscione non era stato aperto, eravamo ancora per loro dei ragazzi e delle ragazze e delle persone che stavano vicino al Colosseo su un muretto a parlare, e quindi invece poi è scattata questo tipo di operazione, che secondo noi, come ACAD racconta molto bene il clima, no? Che in qualche modo vogliono creare, credo che magari se in quella situazione ci fossero stati dei compagni e delle compagne magari meno pronti, meno abituati, meno informati su come le cose possono andare avanti, cioè o come si possono sviluppare queste cose qua, magari invece avrebbero potuto mettere molta più paura, avrebbero potuto in qualche modo anche far scattare delle reazioni incontrollate, perché effettivamente quando poi sei vittima in maniera così netta di un'ingiustizia, tenta di reagire, e secondo noi era un po' proprio quello che loro quella sera cercavano. Per fortuna siamo rimasti lucidi, abbiamo fatto valere chiaramente i nostri diritti, però anche sapendo che quella condizione era comunque in qualche modo meglio cercare di appunto provare a gestirla, però era chiaro che insomma l'intento era proprio quello di farci, come dire, incavolare. Per fortuna poi ci sono venuti a prendere anche altri compagni e altre compagne, per fortuna siamo dovuti tutti a con una denuncia che fa ridere, però è una battaglia ancora molto molto lunga, anche perché purtroppo dal punto di vista anche di crediti che oggi governa non c'è nessun tipo di ascolto rispetto a quelle che sono tutte quelle misure preventive, ma non solo rispetto al numero identificativo, ma anche proprio il cambio di una cultura all'interno delle forze dell'ordine, proprio dal punto di vista formativo, no? Ormai lì c'è proprio un modello di formazione dei corpi di polizia che appunto ha fatto del camerismo un codice di omertà, di incopertura, di violenza, e quindi insomma c'è tanto da sradicare. Se non vogliono il volto di Riccardo, non vogliono le scritte per Riccardo al Colosseo, e noi gliele faremo trovare dappertutto, perché comunque la determinazione è l'antidoto più più importante a questo stato di paura. Dai, dai, dai, un po' di calore, su le mani, dai un po'. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Dai Cesare. Grandi, grandi. Il prossimo vuoi essere tu. No grazie. Il prossimo vuoi essere tu. No grazie. Il prossimo vuoi essere tu. No grazie. Il prossimo vuoi essere tu. No grazie, prossimo vuoi essere tu. No grazie, prossimo vuoi essere tu. No grazie, prossimo vuoi essere tu. No grazie, no grazie, no grazie. Attraverso il Tevere pensando ai miei fatti, capita spesso che vada in giro come i matti, guardando i manifesti che mi capitano a giro, solo per sapere che serata ci sia in giro. Ne vedo uno fresco messo adesso addosso al muro, bianco e nero, quattro foto, un sagomone scuro. Vedo le foto di Cucchi, Aldo, Brandi e Gabbo. Uno sembra Giuliani ma ci hanno fatto uno strappo. C'è una scritta nella sagoma, mi avvicino solo un po' di più per leggere che c'è scritto su. Il prossimo vuoi essere tu. E ripenso a tutte le notizie che ho avuto dalla TV. Magari se mi beccano stasera con due canne, finisco sottoterra, non ci sono più condanne. Magari trovo un matto che si metterà a sparare in mezzo all'autostrada mentre cerco di scappare. Non è un discorso antisociale, qui non c'è più destra né sinistra, se ti possono ammazzare. È un problema molto grave se vuoi criminalizzare un ragazzo per la strada che ha una canna e sta a fumare. Per una canna, tu pensa all'Olanda, in negozi compri l'erba come compri la lavanda. Qui la legge è quel che è, la posso biasimare, ma se la legge c'è, devi farla rispettare. Tu portami in galera, non mandarmi all'ospedale, la legge già fa male, tu puoi fargli ancora più male. Sadici in divisa su di me fanno scommesse, solo per vedere se resista a giochi da SS. Non augura a nessuno di finire in quel binario e di campare in qualche errore giudiziario. Non si può campare così, ci siamo stufati tutti, per alcuni grammi fare la fine di Cucchi. Il prossimo vuoi essere tu. No grazie. Il prossimo vuoi essere tu. No grazie. Il prossimo vuoi essere tu. No grazie. Il prossimo vuoi essere tu. No grazie. Il prossimo vuoi essere tu. No grazie. Il prossimo vuoi essere tu. No grazie. Il prossimo vuoi essere tu. No grazie. No grazie. No grazie. Grazie regà. Ed eccoci tornati in voce, ben trovati. Se vi siete collegati adesso, questa è Radio Wombat, questa trasmissione è lo spazio della stampa rassegnata e ringraziamo Cesar, un rapper, giovane rapper dell'area romana, che ha dedicato questo pezzo alla vicenda di Stefano Cucchi. E ovviamente nessuno di noi vuole essere il prossimo, anzi prossimi non ce ne devono essere proprio più, ed è per questo che lottiamo. Per chi si fosse collegato adesso, poc'anzi abbiamo riparlato della vicenda di Riccardo Magherini, ed ora cambiamo, diciamo, voltiamo pagina per fare la nostra consueta incursione in quello che è lo scenario dello scacchiere a nord-ovest dell'area metropolitana fiorentina, dove i padroni dei cieli e del territorio cercano da tempo di realizzare l'aeroporto intercontinentale. Cercheremo di dare un'occhiata agli articoli usciti in questa settimana, decina di giorni che ci separano dalla precedente puntata, nella quale in realtà ne abbiamo parlato poco, però appunto è sempre doveroso e importante farlo, anche perché il tema delle infrastrutture, e quando si dice infrastrutture per Firenze in questa fase, in questo momento storico, si parla principalmente appunto di questa costruzione dell'aeroporto intercontinentale, non sparisce mai dalle cronache, anzi è proprio uno dei temi portanti intorno ai quali gira sia la campagna elettorale del Partito Democratico, guidato ancora una volta da Nardella, che si appresta a primavera, insomma, a chiederci qualcosa di importante dal loro punto di vista, che è il voto elettorale, e intorno a questi temi ruotano anche le forze politiche, tra virgolette, minori, con un particolare occhio un particolare occhio indagatorio intorno a quello che succede anche al centrodestra, che sull'aeroporto si compatta, si divide, si ricompatta e comunque rischia o cerca dei rischia degli scivolamenti che potrebbero risultare pericolosi anche proprio da un punto di vista elettorale per la tornata fiorentina, che chiaramente vede anche nel comune di Firenze un terreno di battaglia su uno scenario che ha chiaramente allargato ed esteso lo scontro su tutto il territorio nazionale. Prima di guardare un po' quello che è il tema aeroportuale, vorrei riportare una notizia che la settimana scorsa non abbiamo fatto in tempo a inserire, ma che per un principio che ormai abbiamo scoperto funzionare, cioè quello della relativa circolarità delle notizie di cronaca, possiamo tranquillamente recuperare in questa settimana. La notizia non è stata di particolare impatto né peso, perché era una tra le tante, in una pagina non delle principali della cronaca del Corriere, direi tra l'altro solo comparsa solo sul Corriere e non su Repubblica. 16 novembre, Palazzo Vecchio pesa i turisti di Firenze, uno studio propedeutico al nuovo piano UNESCO, verso visite solo su prenotazione. L'articolo leggerò alcuni estratti. Il peso del turismo in città non è solo questione di ragionamenti o strategie liquide, ma anche un fenomeno misurabile. Ed è proprio per misurare quanto incide la pressione per del via vai degli stranieri nel centro storico di Firenze, mi permetterei di aggiungere immediatamente che non è solo questione di stranieri, ma sono anche altri italiani che frequentano i centri storici delle nostre città, ma insomma. Ed è proprio per questo che l'ufficio UNESCO di Palazzo Vecchio ha avviato insieme con l'Università di Firenze uno studio specifico che dovrà rivelarci qual è la capacità di carico di quella parte della città che dal 1982 è iscritta nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Lo studio è già in corso e si conosceranno tra qualche mese in tempo per stilare il nuovo piano di gestione dell'area UNESCO, che dovrà essere pronto per giugno. Lo studio si avvarrà di vari dati e di comparando vari indicatori. In primo luogo, il numero dei biglietti staccati nei principali siti turistici della città, Uffizi e Palazzo Vecchio in primis, perché sono tra i più visitati, ovviamente. Ma non basta, questi numeri saranno integrati da quelli rilevati dalle telecamere piazzate nelle vie cittadine. Da queste analisi si penseranno eventuali correttivi. I circuiti alternativi sono allo studio per gli stranieri, nel tentativo di promuovere la conoscenza di quei musei in centro, ma anche nei dintorni di Firenze, comprese le ville poco visitate. E questo è cosa certa, ma non basta. In realtà, appunto, faccio un altro inciso, questo tentativo, cioè quello di delocalizzare o di dislocare flussi turistici anche in aree considerate meno centrali o relativamente marginali, spostandole verso attrattive turistiche, certamente da un punto di vista storico-artistico non meno interessanti, penso per esempio proprio vicino alle nostre antenne, insomma alle ville Medici, alle ville di Castello, ma insomma a molto altro patrimonio che è sparso per Firenze anche nelle aree, ripeto e ripetiamo, ovviamente meno centrali. È un tentativo che c'è già, questo però non fa sì che le persone possano essere tenute lontane poi dalla cupola del Duomo, dal campanile di Giotto, dagli Uffizi, da quel quadrilatero, da quel fazzoletto di terra nel quale è concentrato un incredibile patrimonio storico e artistico che conosciamo tutti, tutto il mondo conosce e tutto il mondo vuole visitare. A Palazzo Vecchio nessuno dà ricette definitive, c'è chi ipotizza di applicare ai vari siti turistici, musei e palazzi il principio che da anni governa le visite del Cenacolo Leonardiano a Milano, cioè l'ingresso con prenotazione e anche molto anticipata. Non è un numero chiuso della città, che non sarebbe praticabile, ma ci andrebbe vicino, regolamentando de fatto l'uso dei turisti, l'afflusso dei turisti in città e stornandoli in luoghi meno conosciuti. Per avviare una politica di salvaguardia del sito UNESCO occorrono soldi, per questo appunto che l'assessore al turismo e allo sviluppo economico Cecilia Del Re ha sollecitato il governo a sbloccare i 6 milioni del CIPE a favore della regolamentazione del turismo della città d'arte, fondi, scrive la Del Re, che si trovano ancora dentro al Fondo Sociale per lo Sviluppo e la Coesione, ma che se non verranno impiegati entro il 2019 rischiano di essere persi. Scusate, mi è scappata una mezza risata, perché che tutto sempre si risolva con il chiedere i soldi a qualcuno, in questo caso l'amministrazione locale che chiede ancora i soldi al governo per il governo dei flussi turistici, scappa quasi una risata, perché insomma evidentemente il problema non è quello di avere altri 6 milioni di euro su Firenze per governare flussi turistici, evidentemente il problema è più ampio, più generale e ha a che vedere con un modello, un progetto di città che anche dai nostri microfoni più volte abbiamo tentato di mettere in evidenza come il disegno generale sfugga e ci porti con una certa tranquillità a poter affermare che non c'è alcun disegno generale se non un disegno generale che è quello di cercare di garantire con ogni mezzo necessario la prosecuzione dell'accumulazione capitalistica per come si è sempre fatto, quindi tentando di mantenere inalterati i rapporti di potere e gli assetti delle classi dominanti fiorentine, per cui continuando a spingere l'acceleratore sulla turistificazione della città, che significa portare introiti verso la rendita immobiliare e fondiaria, che continuare a spingere sull'acceleratore delle produzioni e vendita in loco delle cosiddette eccellenze, insomma dei beni di lusso, dell'economia legata al lusso, le grandi firme da Ferragamo a Cavalli, passando per Gucci o chi per loro, e questo è un po' quello che sta accadendo al centro storico fiorentino. Diciamo, ho letto questa notizia che credo risulti abbastanza interessante e si dovrà vedere quello che succederà, perché appunto, come noi sappiamo e possiamo affermare con assoluta certezza, di fronte al cosiddetto business as usual, cioè al business come si è sempre fatto, si sta sacrificando praticamente ogni cosa. Si sta sacrificando il diritto alla casa, si sta sacrificando la mobilità, si sta sacrificando diritti sociali e non ultime anche libertà e diritti civili, perché per esempio il controllo dei flussi turistici a mezzo di ordinanze ordiniste, come abbiamo visto a Firenze ma anche in altri comuni d'Italia, va indiscutibilmente anche a colpire delle libertà di comportamento banali ed elementari, o meglio banali ed elementari fino a qualche tempo fa, perché in questa nuova e rinnovata situazione rischiano di non esserlo più. Insomma, anche l'idea di non poter mangiare un panino seduti su uno scalino diventa francamente abbastanza ridicola, ci sarebbe da ridere se non fossero cose purtroppo tragicamente serie. Però insomma, ho voluto introdurre il tema del peso del turismo, di cui in qualche modo anche alcune commissioni istituzionali e degli enti pubblici si stanno occupando, prima di andare a guardare, come ho detto, le notizie relative all'aeroporto, perché più si avvicina la conferenza dei servizi per l'aeroporto, che è quell'organo che mette insieme tutti i vari enti coinvolti a vario titolo in una trasformazione urbanistica di questa portata, è cominciata il 7 di settembre. Il 7 di settembre c'è stata la prima riunione a Roma, presso chiaramente i locali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e da lì si sono riconvocati. Si dovevano riconvocare per ottobre e c'è stato il primo slittamento. Si dovevano riconvocare per novembre e c'è stato un altro slittamento. Quindi dopo gli slittamenti siamo arrivati alla convocazione del 7 di dicembre. Convocazione del 7 di dicembre che ad oggi è ancora ferma, però con molta probabilità sembra, perlomeno per quello che si deduce dal tono delle cronache e dall'isteria con la quale i padroni della città, soprattutto intendendo con questi quel complesso di forze tra associazioni di categoria, Confindustria, Confcommercio, Camera di Commercio Fiorentine e Partito Democratico, che da tempo spingono per la realizzazione di questo aeroporto, per come ne parlano sembra che insomma i tempi stiano continuando ad allungarsi, soprattutto per la frenata e il morso che il governo giallo-verde ha messo al progetto dell'aeroporto fiorentino. Quindi la conferenza dei servizi c'è, non c'è, ma insomma, avvicinandosi la conferenza dei servizi e avvicinandosi forse ancora più significativamente la tornata elettorale su Firenze, la questione e il dibattito, se mai c'è stato un dibattito pubblico su questo aeroporto, sta diventando quasi ed esclusivamente una questione politica. Quando dico politica, non intendo politica con la P maiuscola, che è quella arte o scienza dei rapporti di forza e dei rapporti di potere nella società, ma intendo l'aspetto più retrivo, più piccolo, più di di bassa lega, che è inteso come partitocrazia, rapporti e relazioni tra partiti in vista del voto, in vista dell'accaparramento del consenso ad ogni costo, al costo appunto di non parlare praticamente più di niente. Perché? Perché negli articoli che si succedono, che si sono succeduti questi giorni, di cui vi vado poi più o meno a leggere i titoli, si mette fortissimamente in evidenza solo questo aspetto di tira e molla che la città di Firenze sta facendo, o meglio, scusate, non voglio cadere nella retorica nardelliana, non la città di Firenze, ma il comune, l'amministrazione fiorentina e le forze politiche che su questa amministrazione continuano in parte ad investire e ad investire delle proprie aspettative, continuano a fare con il governo. Sono in ballo, come sappiamo, per la trasformazione dell'aeroporto 150 milioni di euro che il governo e quindi lo Stato dovrebbe dare, e questi 150 milioni di euro non è detto che il governo giallo-verde sia disposto a darli. E quindi insomma c'è questa situazione, questo tira e molla che il Partito Democratico e le forze che su di esso continuano ad avere fiducia fanno con il governo, e quindi questo sta condizionando completamente tutto. Di fatto di questo aeroporto non si parla in nessuna forma se non in questi termini. Sembra che per quella che è di fatto una narrazione intossicata all'ennesima potenza dall'avvicinarsi alla scadenza elettorale, che sia una cosa che deve essere fatta per forza, che è assolutamente utile a tutti e tutte gli abitanti di Firenze e della sua area metropolitana, e che questo non avvenga perché un governo di cattivoni e miopi abbia fermato un processo ormai già arrivato alla fine, un iter anche autorizzativo che di fatto era già compiuto, e che semplicemente per fare un dispetto a Renzi e a quelli che sono venuti dopo di lui, il governo giallo-verde gli ha levato i soldi. Ora, attenzione, ho forse nel descrivere questa situazione può sembrare che io abbia visto nel governo giallo-verde un elemento di positività, in realtà non è così. Stavo solo mettendo in evidenza il fatto che il grosso fattore di rallentamento di tutta questa vicenda per ora è stato proprio questo governo, del quale la mia valutazione personale, la valutazione che facciamo come Radio Wombat, non può che essere assolutamente negativa. E come abbiamo più volte messo in evidenza, oltre ai temi del controllo dei flussi migratori che lo rendono veramente veramente pestilenziale, abbiamo anche, rispetto alle questioni ambientali della difesa dei territori, più volte messo in evidenza come ci siano tantissime questioni nelle quali le aspettative e le promesse che soprattutto la componente 5 Stelle del governo aveva fatto prima di arrivare appunto a prendere in mano le redini del paese si stiano rivelando poi irrealizzate, e stiano dimostrando quel realismo del re che condanna le popolazioni, l'ambiente e il territorio al profitto e all'accumulazione capitalistica. Allora, come dicevo, vi leggerò qualche titolo perché siamo proprio un po' nel teatrino dell'assurdo. Corriere Fiorentino, 21 novembre, Fallani, che per chi non lo conoscesse è il sindaco di Scandicci, Fallani ai colleghi della Piana, il no è un danno ai lavoratori, e questo è il Fallani. 23 novembre, sempre il Corriere, Peretola, che cosa succede ora? Il nodo dei 150 milioni pubblici. Dopo il sì in regione, l'attesa per quello in conferenza dei servizi, che però non basterà. Articoletto, a firma di Stefano Baccelli, consigliere regionale PD, presidente Commissione Infrastrutture e Trasporti, dal titolo veramente molto interessante, un pericoloso sovranismo dei campanili. Ecco, come dicevo appunto, che tutto sta avvenendo nella cornice dello scontro anche di retoriche e di parole d'ordine tra forze partitiche. Quindi il pericoloso sovranismo dei campanili certamente è un riferimento al sovranismo intesa come lettura della realtà legata a sicuramente afferente a Lega e parte dei 5 Stelle e dei campanili, perché c'è questa diatriba tra allargare Pisa, allargare Firenze, quindi tra i due scali, no? Quindi questo campanismo, come se invece l'idea di allargare Firenze fosse scevra da campanilismi. Altro titolo, il governo Renzi ha stanziato, ma non erogato, 50 milioni 100 sono da reperire, e qui ci riferiamo al fatto, come appunto ho detto, che questi soldi, o meglio parte, la metà esatta dei soldi solo per cominciare lo sbancamento di terreni necessari alla costruzione di questo aeroporto sarebbe di 150 milioni di euro pubblici e 150 milioni privati. D'altra parte c'è anche da dire, e questo è uno dei rischi e delle paure più grosse che abbiamo dentro i movimenti, dentro soprattutto le reti che da anni seguono e contrastano le vicende delle grandi opere, che questi soldi sarebbero solo il prompt per cominciare, perché poi, come conosciamo perfettamente la dinamica delle grandi opere, che è fatta di varianti in corso d'opera e che richiedono altri soldi. Una volta che si comincia, diventano i bancomat della politica, quei bancomat della politica che abbiamo conosciuto in questi anni e di cui la vicenda alta velocità è senza dubbio la più rappresentativa in termini numerici. Vicenda che non casualmente nacque e fu forse addirittura pensata a tavolino, come in qualche modo ipotizza ed è una delle chiavi di lettura del famoso, ormai datato, libro di Ferdinando Imposimato, il magistrato che aveva scritto appunto Corruzione ad alta velocità. Libro datato, Ferdinando Imposimato morto l'anno scorso, però sicuramente anche attraverso quella lettura del fenomeno, una lettura dall'interno della macchina dello Stato, si evince e si induce l'idea che dopo Mani Pulite servisse alla partitocrazia italiana un nuovo bancomat che fosse di fatto e rappresentasse anche un elemento di finanziamento occulto ai partiti politici, e cosa di meglio che realizzare un'opera, un'infrastruttura immensa come quella di un sistema di trasporto rapido, ma che in un paese relativamente piccolo e molto molto montuoso in percentuale come l'Italia avesse bisogno di scavare tantissime buche e tantissimi trafori e sbancare tantissima terreni, un'enorme movimentazione terre, e in questo settore più che in altri era possibile far sparire dei quattrini che sono spariti veramente a valanghe e che nonostante le tantissime inchieste anche condotte dalla magistratura, questa è la storia delle grandi opere. Quindi questo ci dice che anche sull'aeroporto di Firenze noi dobbiamo tenere ferma la barra su questa chiave di lettura del fenomeno e pensare che probabilmente non è neanche detto che un aeroporto verrebbe mai realmente realizzato fino in fondo, ma che questa macchina di finanziamento potrebbe partire e non vedere mai la fine. Non è una scemenza quella che dico e diciamo, perché anche la vicenda dell'alta velocità e del nodo dell'attraversamento cittadino fiorentino è a questi livelli. La stazione Foster, di fronte alla quale abbiamo visto andare il sindaco Nardella con tutto il suo assessorame poche settimane fa per dire che devono ripartire i lavori, ha vissuto questa vicenda. Chi ha abbastanza memoria e anagraficamente può permettersi di ricordare quella che era la campagna politico-mediatica intorno alla costruzione dell'alta velocità sia in Toscana che a Firenze tra gli anni 90 e gli anni 2000, si ricorderà che se ne parlava esattamente in questi termini: doveva essere fatta per forza, senza alta velocità Firenze sarebbe stata esclusa dai collegamenti con il resto del mondo, saremmo andati incontro a una crisi infrastrutturale, occupazionale, di redistribuzione della ricchezza, avremmo avuto difficoltà nel estendere l'afflusso turistico verso la città. Eppure ancora è tutto lì, i cantieri sono fermi, i lavoratori non hanno pagato, ci sono stati degli scioperi, insomma sono cose di cui abbiamo parlato tante e tante volte. Teniamo ferma anche questa chiave di lettura sul fenomeno aeroporto, cioè quella dei finanziamenti e dei bancomat della politica. Altro titolo: Mallegni contro Ceccardi, potenziare Peretola farà bene anche a Pisa. Qui si parla del dibattito interno al centrodestra. La Nazione, Peretola, c'è il sì in commissione, ma la Lega a sorpresa dice no. Montemagni, informati troppo tardi, oggi il voto finale in aula. E poi un altro filettino veramente piccolo ma rilevante: urbanistica, attesa per il progetto definitivo. Stadio nell'area Merkafield, i carotaggi sono in corso, con foto di una macchina che effettivamente sta facendo carotaggi all'interno dell'area della Merkafield. Come sappiamo, l'ho detto più volte ma lo ripeto, l'area Merkafield, cioè l'attuale mercato ortofrutticolo fiorentino, dovrebbe spostarsi tipo disco volante per essere ricollocato in una struttura, ovviamente in nuovi edifici di nuova edilizia da costruire nell'attuale area Unipol, che è quella cosiddetta area fondiaria, perché molta Firenze la conosce così, che è quella che si trova di fronte ai binari, diciamo, della stazione di Castello, guardando verso la piana, tra il viale 11 agosto e l'attuale pista di Peretola. Questa è l'area che verrebbe colonizzata con nuovo e freschissimo cemento per ospitare la nuova Merkafir. Al posto della vecchia Merkafir, cioè dove stanno facendo i carotaggi, cosa ci dovrebbe andare? Lo stadio nuovo, la cosiddetta nuvola, chiaramente è Cittadella Viola, sono centri commerciali, parcheggi, studentato di lusso, bla bla bla. E ancora il progetto La Fiorentina non l'ha neanche fatto, però c'è già i carotaggi. Dite se non è questa fare politica e propaganda. E insomma, di tutto questo riassetto, di tutti i titoli che vi ho letto, non ce n'è uno dove si discute o si dice cosa dovrà avvenire, perché lo si fa, perché non lo si fa. Tutto è un dibattito intorno alla politica. E insomma, abbiamo fatto accenni ed ora vado a chiudere, perché vi sto veramente cotonando le orecchie su sta storia dell'aeroporto. La andiamo a chiudere guardando che è successo da un punto di vista degli atti amministrativi, perché appunto è sempre un grande ginepraio. Che è successo sta settimana, se n'è parlato, o meglio, abbiamo letto i titoli: aeroporto di Firenze sì, solo dal PD, il centrodestra abbandona l'aula, ok all'ampliamento, bufera dopo un intervento della Ceccardi. Questa è la Nazione del 22 di novembre. C'è stato il consiglio regionale che approva a maggioranza, ma solo con i voti del PD, la risoluzione sul master plan dell'aeroporto di Firenze. In pratica, l'assemblea di ieri, approvando una risoluzione che sana le carenze urbanistiche, dà mandato al presidente della Regione Rossi di portare il SIT toscano allo sviluppo dello scalo fiorentino alla conferenza dei servizi del 7 dicembre al Ministero delle Infrastrutture. Praticamente questa notizia che la Regione approva il master plan l'avevamo già sentita, però sembra che ad oggi abbiano pure cambiato, o meglio che ci sia la cosiddetta variante automatica del piano di indirizzo territoriale. Il piano di indirizzo territoriale era un problema, un vulnus diciamo amministrativo, perché la Regione Toscana doveva rivedere il proprio piano di indirizzo territoriale, nel quale ci sarebbe ancora la previsione di piano del Parco della Piana, che è chiaramente in antitesi con la costruzione dell'aeroporto e della nuova pista. Che avrebbero fatto secondo loro, perché anche qui bisognerà vedere se la cosa ha legittimità da un punto di vista procedurale, essendo e rappresentando essenzialmente un aspetto, come ho detto, partitocratico e propagandistico. Bisognerà vedere se vale, però insomma loro che hanno fatto, avrebbero approvato il master plan e quindi con questo variato automaticamente il piano di indirizzo territoriale. Non è assolutamente detto che questa appunto sia una procedura valida, perché è un piano di indirizzo territoriale che viene cambiato solo perché in modo automatico, senza un'ulteriore e precisa e contingentata discussione, non è assolutamente scontato, ma insomma, siccome siamo a fare propaganda, la propaganda è stata fatta e quindi sembra che tutto è già pronto. In realtà tutto è già pronto, come si dice anche tra bambini, una bella cippa, perché i no sono diversi, il sì, insomma, il sì a questa variante automatica, chi lo avrebbe dato? Lo avrebbe dato Fratelli d'Italia, lo avrebbe dato il PD, la Lega ha dato questo no, o meglio che è un ni, poi lo vediamo, e poi il sì l'ha dato anche il Movimento di Rossi, MDP, che però all'interno del quale viene pure, insomma, avviene pure una scissione, perché è proprio la famosa Serena Spinelli, che è l'unica consigliera del partito del governatore Rossi, vota pure no. Quindi le discussioni ci sono e stanno attraversando anche le loro forze politiche, ed è anche per questo che se ne parla così tanto e così continuamente, perché intorno anche a questa vicenda ci sono piazzamenti e giochi politici che a noi non ci interessano, e continuiamo a dire che questo aeroporto in questa città non ci sta, che il trasporto aereo tutto sta generando fortissime tensioni e entra in forte contraddizione con i diritti delle popolazioni, non solo quelle che si trovano più in prossimità degli aeroporti, che subiscono l'impatto acustico, che è l'elemento più percepibile proprio perché appunto è rilevato dall'orecchio umano e diventa anche fastidioso, ed è scientificamente provato da studi che ha un impatto sul cervello, sugli apprendimenti nel caso della vicinanza delle scuole, e anche ripercussioni sul sistema cardiocircolatorio, perché è motivo di ansia e di forte stress. Ma non solo sono quelle le popolazioni che stanno più vicine agli aeroporti ad essere colpite, ma lo siamo tutti, perché gli aeroporti usano combustibili fossili e sono una forma di trasporto in forte aumento in tutto il globo, e sono quindi per le emissioni clima alteranti fortemente messe in discussione e sotto accusa, perché contribuiscono non poco come vettori ormai della fabbrica globale del turismo e degli spostamenti all'alterazione del clima, alterazione del clima che sta dando i suoi frutti amari attraverso l'instabilità climatica e alcuni eventi climatici sicuramente rilevanti. Quindi con questo finiamo questo capitolo per dire che la nostra opposizione, anche popolare, anche dal basso, anche auto-organizzata come abitanti, cittadini, lavoratori e classi subalterne della piana, non è delegata in nessun modo al governo giallo-verde che ha frenato sui finanziamenti, ma si rinnova, e l'8 dicembre, nella giornata nazionale contro le grandi opere, che è stata lanciata dalla Val di Susa e che ormai è una data, diciamo, una, tra virgolette, una ricorrenza, che però per l'appunto, come si dice sempre, non è una ricorrenza, ma è una data che vuole moltiplicare e rafforzare le resistenze urbane e territoriali di tutto il bel paese che resiste, come è stato detto alla conferenza dei territori tenuta proprio a Firenze ad ottobre. Quindi l'8 dicembre alle ore 10 ci ritroviamo al Polo per una camminata sui terreni, camminata che questa volta andrà nella direzione del lago di Peretola e della oasi WWF Val di Rose, che sarebbero piallate e cementate con la pista e che nei progetti dei padroni, secondo loro, un ecosistema, o meglio due ecosistemi, che si sono evoluti nel corso di centinaia di anni, verrebbero compensati andando a rimettere un tot di quantità di acqua in un altro punto che nella fattispecie sarebbe Signa. Questo non lo possiamo permettere, quindi andremo a vedere e a conoscere, sperando di portarci persone che quella area della città, quella parte di città che tra l'altro appunto non è certo meta turistica, non la conoscono, di far vedere cosa potremmo perdere con il nuovo aeroporto e invece cosa insieme possiamo fare, andando poi a mangiarci una polenta o qualche altro piatto popolare nell'area del presidio non cineritore no aeroporto, che è ancora insediato di là dalla via dello Smannoro, e passeremo insieme questa giornata per poi fare dei collegamenti radiofonici, telefonici, video con la manifestazione importantissima di Torino, che risponde anche alla manifestazione Sì TAV, Sì Tutto, che abbiamo visto e che chiaramente ha fatto un po' anche da trampolino a questa giornata dell'8 dicembre. E poi la sera, ovviamente, per tutti e per tutte c'è pure la festa di Radio Wombat al Next Emerson. Quindi l'8 dicembre, una giornata nella quale non fare turismo, ma nella quale fare lotta, nella quale stare con i compagni e le compagne a condividere quello che è il futuro che vogliamo, che passa dai nostri impegni nel presente. Eccoci, ancora noi, ancora Radio Wombat, ancora stampa rassegnata, pochi minuti fino alla fine della trasmissione. Dopo questa iniezione di energia da parte dei fratelli di Soledad in un pezzo, un classico dell'antagonismo di ormai diversi anni fa, andiamo verso la chiusura con un paio di brutte notizie, tanto per cambiare. Amianto nella succursale, doppi turni al Calamandrei, da un articolo del 23 novembre della Repubblica. Diamo purtroppo questa notizia abbastanza triste, anche se siamo nel campo di quelle cose che ci si potevano aspettare e che forse molti sapevano, anche se hanno girato la testa o fatto finta di niente. Articolo direi ben fatto nel riassumere la situazione, che recita: aule off limits, doppi turni a centinaia di studenti costretti a trasferirsi per frequentare le lezioni. Il portone della succursale Tifariti dell'Istituto Calamandrei di Sesto da ieri mattina è sbarrato. Nessuno può entrare, né alunni, né insegnanti, né custodi. Motivo? Nei pavimenti della scuola potrebbero essere presenti tracce di amianto. A stabilire la chiusura fino a data da destinarsi della sede di Viale Di Vittorio, che conta una ventina di classi con più di 400 studenti, un'ordinanza comunale firmata dal sindaco Falchi su richiesta della ASL. Che era successo? Tutto era cominciato a ottobre, quando la preside della scuola e alcuni docenti avevano notato che le mattonelle del pavimento si stavano sgretolando. Già a luglio del 2017 la città metropolitana, di cui è la competenza degli istituti scolastici superiori, aveva fatto fare dei controlli, ma l'esito dei controlli era stato negativo. Da allora però la dirigente scolastica, in totale autonomia e utilizzando i fondi di istituto, ha deciso di commissionare ulteriori rilievi a una ditta esterna. Ci siamo mossi da soli e abbiamo fatto bene, dice la preside Simonini. I nuovi esiti sono stati positivi, cioè sono state individuate fibre di amianto, e allora ci siamo rivolti immediatamente all'ASL, sindaco e città metropolitana. E quindi insomma quello che sta succedendo poi è cronaca, è facilmente intuibile. A scuola noi ragazzi non ci stanno andando, non ci va neanche il personale, e stanno utilizzando sostanzialmente i locali della sede centrale per ospitare anche le lezioni della sede distaccata. Quindi ovviamente gli orari non possono coincidere, e quindi i ragazzi della sede distaccata stanno sostanzialmente frequentando con orari da scuole pomeridiane, perché entrano alle 13.30, se ne vanno alle 18.30, di modo da poter far ruotare le classi, insomma, che sono evidentemente raddoppiate in un unico locale. Questa è una situazione effettivamente abbastanza triste, che non si può non commentare negativamente, con un amaro sorriso sulle labbra, perché d'altronde, come giustamente ha fatto la preside e la scuola, hanno dato seguito, o meglio si sono mossi in autonomia nel fare dei controlli igienico-sanitari sulla struttura, quando in realtà erano già stati fatti dalla città metropolitana, che è responsabile e competente per le strutture scolastiche, come dice l'articolo, ma erano risultati negativi. Però non ci vedevano chiaro se le sono fatti da sé e l'amianto l'hanno trovato. Insomma, i ragazzi del Calamandrei chiaramente in questi giorni hanno anche giustamente protestato per quello che è successo, per quella che è la loro situazione, ma c'è anche un serio problema di nocività, perché chiaramente questo amianto, che veniva utilizzato anche nella scuola come isolante acustico e termico nei solai, insomma, per isolare tra un piano e l'altro, e quindi insomma c'è un problema di seria esposizione alla fibra di amianto, che non è assolutamente uno scherzo, come sappiamo e come ormai è materia più che abbondantemente studiata anche a livello scientifico. Con questo vi saluto, ci sentiamo la prossima settimana. Un pugno chiuso a tutti e a tutte, a presto, ciao!